Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. In questo nostro appuntamento di oggi con l'Adico di Mestre parliamo di un argomento di assoluto interesse e quindi vado a salutare subito Gianluca Codognato che è con noi al telefono. Ciao Francesco, un saluto ai radioascoltatori. Ciao Gianluca, allora la cosa che volevi portare un po' alla luce è una notizia che riguarda l'IVA agevolata sulle bollette elettriche per le fondazioni Onlus in Veneto. Sì Francesco, guarda, noi parliamo di questo argomento che è molto recente e potrebbe avere dei risvolti futuri, speriamo di no, in realtà se ne vedono già le conseguenze, che riguarda appunto l'IVA sulle bollette elettriche. È quella che viene applicata per le residenze sanitarie assistenziali, quindi le RSA, gestite da Fondazione Onlus. Allora diciamo che fino a questo gennaio, queste residenze sanitarie assistenziali, quindi le fondazioni, andavano a pagare sulle bollette un'IVA agevolata, quella che viene considerata ad uso domestico, del 10%, quindi praticamente hanno sempre pagato il 10% di IVA su queste bollette. Succede però che dal 19 gennaio, dopo un'interpellanza, l'Agenzia delle Entrate ha voluto mettere chiarezza, aggiungiamo purtroppo, su questo argomento, specificando che appunto in questo caso l'IVA per le residenze sanitarie essenziali, al contrario di quello che succede per le case di riposo, in realtà deve essere considerata non agevolata perché ha una certa consistenza, un'IVA importante ai fini appunto del pagamento, è una prestazione rilevante ai fini appunto dell'IVA, quello che viene prodotto da una residenza sanitaria assistenziale. In parole povere, questa circolare del 19 gennaio si dice che le RSA, ma anche altre realtà tipo scuole e asili gestiti da Fondazione Onlus, devono pagare un'IVA al 22% sulle bollette. Questo chiaramente è un problema non solo per il futuro, cioè per il fatto che da adesso, ed è già successo, le ditte che fornisce quindi energia elettrica ha già contattato le diverse strutture specificando che da adesso in poi l'IVA non sarà più agevolata ma sarà al 22%, quindi ci rendiamo conto Francesco che questo sarà un impatto su queste strutture che ospitano anche persone in difficoltà, sto parlando delle RSA, oppure bambini, alunni eccetera, e quindi il rischio è anche quello che per alcune strutture non sia sostenibile questo tipo di pagamento. La cosa più grave però è che è già successo che appunto alcune aziende siano andate a chiedere anche, anzi abbiano annunciato di fare i calcoli per chiedere anche gli arretrati di 10 anni. Cioè cosa significa? Significa che appunto molte ditte fornitrici prestate dall'Agenzia delle Entrate vanno a dire alle strutture: voi avete pagato finora un'IVA al 10, l'IVA era al 22, ci dovete dare la differenza del 12%. Immagino che su una struttura grandissima che ha magari macchinari e luci continuamente accese, le cifre siano veramente rilevanti. Beh Francesco, facendo alcuni calcoli con delle persone esperte del settore, abbiamo potuto vedere che le cifre potrebbero variare da un 15.000 euro per una struttura molto piccola a arrivare anche agli oltre 90-100.000 euro per una struttura molto grande, sto parlando di arretrati di 10 anni. Capisci che in questo caso ci potrebbero essere delle strutture che rischiano anche di chiudere. Comunque la prospettiva è quella anche di un aumento delle rette per gli ospiti. Certo. E questo è un problema che non riguarda solo il Veneto, anche se dal Veneto noi abbiamo ricevuto segnalazioni soprattutto dalle parti del Bellunese e da parte appunto di persone che sono dentro queste realtà e ci hanno detto che sono già arrivate le lettere da parte delle ditte fornitrici, le quali chiaramente sono pressate dall'Agenzia delle Entrate, perché poi noi sappiamo che l'IVA finisce allo Stato, finisce al Ministero, quindi c'è questo pressing. E noi chiaramente vorremmo farci portatori di una battaglia, anche grazie appunto al vostro programma, affinché l'Agenzia delle Entrate torni subito e immediatamente indietro sulla propria posizione, perché a nostro giudizio questo potrebbe creare un problema non solo per le RSA, perché da quello che ci hanno comunicato sembra che, essendo molto interpretabile come al solito, la circolare sia stata allargata anche appunto a scuole, asili nido e anche alle stesse case di riposo, dove fino al 2016 comunque si considerava di applicare un'IVA agevolata proprio perché si considerava un consumo ad uso domestico. E quindi ecco Francesco, al di là delle questioni puramente tecniche, direi che staremo alla finestra a guardare, siamo dispostissimi chiaramente a seguire chiunque, qualunque struttura anche ci voglia chiedere il nostro aiuto, appoggiarsi a noi, ad esempio per fare un ricorso contro la richiesta di pagamenti di arretrati, però insomma ci faremo una battaglia anche affinché venga definita un'IVA agevolata per queste realtà, perché ci sembra scandaloso che non sia così. E sono d'accordo, quindi intanto avete l'appoggio morale anche di Blu Radio Veneto. Andiamo ed è avanti, molto importante. Andiamo avanti su questa cosa, cerchiamo di capire di più, magari torneremo a parlare. Intanto ricordo che c'è a disposizione il sito www.associazionedifesaconsumatori.it dove trovate i contatti per eventualmente chiedere lumi e sentire gli amici dell'Adico per avere altre informazioni. Grazie intanto a Gianluca Codognato, ci risentiamo tra qualche giorno. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.